Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Oggi gli argomenti sono numerosi, ma comincerei innanzitutto dal bilancio di Coppa. Bilancio che ripete, fotografa esattamente lo scorso anno, e cioè in semifinale di Coppa Campioni due squadre spagnole, che sono le stesse, un inglese, che è il Chelsea al posto del Manchester United, e una tedesca, il Bayern, anziché lo Schalke 04. Cristallizzata questa situazione ormai, vero ministro degli esteri? Sì, buongiorno Gigi. Buongiorno, sì, cristallizzata Fabio. Con una, diciamo, perdita di valore, nel senso che il Manchester United dell'anno scorso era certamente più forte del Chelsea, e un accrescimento che è quello del Bayern di Monaco, che alla finale in casa è certamente più accreditabile rispetto allo Schalke 04, che l'anno scorso sorprese un po' tutti, Inter in primis, arrivando fino alla semifinale e poi di fatto fermandosi lì. Cioè, diciamo che adesso abbiamo delle semifinali più forti complessivamente, anche perché Real e Barcellona non si sfidano, verrebbe da dire per fortuna, visto che in molti pensiamo che sia la finale più logica, e quindi la potremmo avere solo in finale. Tu ti ricorderai certamente, Gigi, l'anno scorso che ci fu un diluvio di sfide una dietro l'altra tra Real Madrid e Barcellona, quasi nessuna poi fu realmente una bella partita, e quindi auguriamoci, io penso sia la finale più giusta e credo e spero possa diventare anche una bella partita. Vediamone una sola, in realtà poi c'è anche il classico di ritorno che probabilmente metterà fine alla Liga nel caso in cui Real Madrid dovesse non perdere, e quindi ne avremo due in questo periodo piuttosto che averne 4 o 5 come fu l'anno scorso. Sì, e ti dirò che a proposito di Tour de Force, tra il per esempio prima Barcellona e poi Real, il 18 aprile c'è Chelsea-Barcellona, il 21 o 22, non si 22, sa ancora esattamente, credo. C'è Barcellona-Real, e il 24 c'è Barcellona-Chelsea, ma occhio che negli stessi giorni si giocano Bayern-Real Madrid, Barcellona-Real Madrid e Real Madrid-Bayern, quindi insomma. Io onestamente ogni tanto faccio fatica a capire la UEFA quando fa sia i quarti che le semifinali andate e ritorno di fatto in una settimana, o comunque sì, in 8 giorni, quando a volte passano 2 settimane, che sono un tempo sinceramente lungo per i tifosi e per l'attesa, però sono anche un tempo più consono. Forse la Champions potrebbe anche cominciare un po' prima, sì, cioè la pausa invernale potrebbe essere anche un pochino meno lunga e stressare di meno in una fase che è quella tra marzo e aprile, che storicamente è decisiva, e a livello di calendari non è che non puoi mettere le grandi partite. Credo che non ci siano ancora riusciti, forse non ci riusciranno mai a fare una sorta di bilanciamento delle sfide, cioè magari evitare che le grandi squadre vadano a scontrarsi tra di loro in campionato e poi anche in Europa. È anche vero che non è prevedibile, quando vengono stilati i calendari a luglio, le squadre che arriveranno così lontano in Champions League. Diciamo che è intuibile, ma non è sempre prevedibile, e quindi ci sta. Sì, resta comunque singolare il fatto che tra sfide raramente, così equilibrate, così di alto livello, quali sono quelle degli ottavi, tra le sfide agli ottavi passino anche 3 settimane, no? Di media, sì, sì. Come passano, e poi invece in 6 giorni devi giocare la vita per partite di tutt'altro livello e tutt'altro impegno. Sì, ma anche perché, Gigi, c'è stata una differenza che già c'è stata l'anno scorso, ma che la differenza è di qualche anno fa c'erano praticamente le partite, erano tutte insieme. Adesso invece, ad esempio, negli ottavi di finale, sì, ne vengono giocate, si spezza per evidenti motivi di diritti televisivi e quindi di denaro per offrire un prodotto, per offrire più partite di fatto, certo. E quindi è anche normale che poi da qualche parte, se tiri da qualche altra parte, devi mollare. Senti, prima di arrivare ai calendari nostrani, invece, che mi sembra un altro buono spunto, volevo dare un'occhiata al ranking UEFA. Allora, nel 2007 l'Italia, che aveva una squadra in più, no? E che poi ha perso ad opera della Germania, aveva 22 punti in più della Germania in questa speciale classifica. Adesso la Germania ne ha 15 più dell'Italia, la quale Italia ne ha conservati solo 5 di margine su Francia e Portogallo, quindi il prossimo gradino all'ingiù, se la tendenza, questa decadenza viene confermata nelle prossime stagioni, una squadra ce la mangeranno ulteriormente, o la Francia o il Portogallo. Teoria sarebbe ora di provare a correre ai ripari. Sì, non si sa come, però, perché il vantaggio per il calcio italiano sarà che l'anno prossimo nella Champions League ci sarà la Juventus, che seppure in un certo periodo comunque complesso, è una squadra che tendenzialmente può garantire qualcosa in più rispetto ad altre. Dipende sempre poi, ci sono i vari cicli. L'Inter è una squadra che ha dato molto a livello di ranking, cioè ha contribuito molto a livello di ranking ultimamente, probabilmente nei prossimi 2-3 anni potrebbe essere meno competitiva, o magari invece no, magari sorprende e cambia tutto. Il Milan ha una politica diversa, Galliani ricorda molto spesso che fattura molto meno del Barcellona, e la politica del Milan adesso è di prendere i parametri zero, e con i parametri zero puoi fare delle cose buone in Italia, ma è difficile poi battere il Barcellona. Beh, c'è anche la componente di mettiamola così, di sfortuna, perché il Milan ha preso il Barcellona, adesso è preso credo 3-4 anche 5 altre squadre su 8. Penso che il Milan perdesse in partenza contro Real e Barça, mentre con le altre se le giocava con tutte, diciamo che col Bayern se la giocava e con le altre sarebbe stato favorito. Ci sta anche questo, no? Cioè ci sta che se non prendi il Barcellona magari passi, vai in semifinale, il ranking certo. Migliora immediatamente e la Francia ti fa un po' meno paura. Ora io dico la verità, noi ogni tanto siamo anche duri e forse è giusto così nei confronti del nostro calcio, però pensare di perdere una squadra a favore di Francia e Portogallo, beh, insomma, sinceramente Portogallo ha fatto un sacco di punti grazie all'Europa League. Allora noi non dimentichiamoci mai che, come abbiamo imparato a conoscere la parola spread e la parola ranking ultimamente, ecco, abbiamo migliorato lo spread, miglioriamo anche il ranking, facendo sì che in Europa League non sia sempre un bagno di sangue. Ma perché no? Ma difatti, senti, rispondi a questa domanda, dammi la tua valutazione. Ho sotto gli occhi il programma del calcio estero nel vostro fine settimana di Sky. Beh, c'è un'alluvione di partite la domenica di Pasqua che io trovo e qualcosa a Pasquetta che trovo abbastanza normale, perché sono giorni di vacanza, non è sacro come il Natale la Pasqua, no? Almeno mi risulta. E in Italia invece tutto viene concentrato il sabato e quindi c'è una formula di calendario diversa rispetto a Spagna, Inghilterra, Germania, eccetera. Come mai? Ma guarda, come mai è intuibile, però io credo che il calcio italiano debba porsi questo problema e almeno pubblicamente non vedo porselo. Io nel mio piccolissimo provo a porlo, cioè io trovo che non sia assolutamente lesivo di nulla e sia fondamentalmente rispettoso della religiosità di un popolo, che è una religiosità evidentemente non di Stato e non imposta in una Costituzione, il fatto che si possa tranquillamente giocare almeno una partita o anche due la domenica di Pasqua. La domenica di Pasqua in Francia, che non mi risulta essere uno stato no, diciamo che non confina direttamente col Vaticano, perlomeno. No, non direttamente, solo l'Italia confina, certo, appunto. Con il globo, o viceversa. No, e la Spagna storicamente è appellata con il titolo di cattolicissima, poi a correnti alternate, ma adesso comunque non c'è più il governo Zapatero, se proprio vogliamo entrare in argomenti più grandi di noi, è tornata a un voto molto più clerico-centrico la Spagna. Gioca il Real Madrid domenica di Pasqua, c'è Real Madrid-Valencia, cioè prima contro terza. In Francia c'è Paris Saint-Germain-Marsiglia, che è il derby di Francia. Certo. Si gioca anche in Germania, la Germania fa giocare due partite, una alle 15:30 e una alle 18. In Inghilterra, qui si può aprire un diluvio anche di chi ci ricorda che è una religione leggermente diversa o profondamente diversa a seconda di come la si considera. Però gli inglesi non soltanto giocano il Boxing Day il giorno di Santo Stefano, giocano tranquillissimamente il giorno di Pasqua, ma non solo. Sono chiuse le scuole, quindi giocano lunedì, martedì, mercoledì. Cioè l'Italia è l'unica nazione con un grande campionato, ora magari qualcuno può dire che non siamo un grande campionato, ma non è vero, che non gioca la domenica di Pasqua. Io credo che non sarebbe per niente offensivo se domenica sera ci fossero, non lo so, Napoli-Lazio, piuttosto che Palermo-Juventus, non lo troverei offensivo nei confronti di nessuno, a maggior ragione con il fatto che la domenica di Pasqua è storicamente considerata una domenica dove sì, chi vuole e lo ritiene necessario va a messa, come è giusto che sia, però ci va la mattina e quindi la sera secondo me può tranquillamente guardarsi una partita di calcio. Ci va la mattina o ci va la sera? Comunque ci va quando vuole, perché comunque sono fatti di ognuno. Cioè domenica o anche sabato le autostrade saranno pienissime di gente che va in vacanza. Non credo che verranno scomunicate dal Vaticano perché non andranno a messa o troveranno un modo diverso per concentrarsi da un punto di vista spirituale e religioso. E quindi credo che ci si debba porre seriamente. Sempre parlando di calcio, ma sì, ci si debba porre la questione, ecco, non la definisco un problema, evidentemente, no, la questione. No. Siamo d'accordo. Grazie, grazie Fabio. Ci grazie, sentiamo buona Pasqua, la prossima settimana, esattamente dopo la Pasqua. Pessime notizie sanitarie arrivano dal fronte milanese sull'uno e sull'altro, perché Castegnos ha riportato un incidente muscolare di terzo grado addirittura, quindi i due mesi di stop sono il minimo, ma probabilmente non basteranno, quindi la stagione è ampiamente finita, è praticamente finita anche la stagione di Pato, anzi lo è certamente, e tra le tante ipotesi che si è fatto, quella che più mi ha colpito stamane è quella formulata da Stefano Tilli, l'ex grande velocista italiano che oggi è un commentatore di atletica per la RAI. Alla domanda, scusi Tilli, ma perché secondo lei Pato si rompe sempre? Ha risposto: perché corre male. Ha un piede molto elastico, poi spiegato, ma il rimbalzo sul terreno è lento. Quando lo stacca da terra il bacino è troppo avanti, mentre per la biomeccanica dovrebbe essere in linea col bacino stesso. E poi continua con questa disamina. Se fosse vera l'ipotesi la teoria di Tilli, beh, insomma, allora sarebbe un problema serio, molto più serio di quanto già non sia quello di Pato, perché dovrebbe evidentemente imparare a correre, e lo dice lo stesso Tilli, bisogna insegnare a Pato a correre in maniera corretta. Grazie, ma se questo è arrivato 22 anni correndo così, no, non è semplicissimo correggerne la dinamica, no? E quindi sì, l'augurio è che Tilli abbia magari centrato una piccola parte di problema, ma solo solo fino ad un certo punto, perché sennò davvero sì, allora la carriera di Pato sarebbe in pericolo, perché poi se cambi gli appoggi, gli spostamenti, la dinamica, non credo che tu riuscirai più a giocare come prima, così a spanne. Tra poco gli interventi, i vostri interventi in diretta, in attesa poi di cambiare argomento e di arrivare al famigerato calcio scommesse nella seconda parte della trasmissione. Sabato, lo si ricordava prima con Fabio Tavelli, c'è una giornata piena di campionato, con non soltanto le due partite che riguardano il titolo, e cioè Milan-Fiorentina alle 3 e poi alle 6 e mezza, e cioè a mezzasera Palermo-Juventus, ma anche per esempio Lazio-Napoli, che a questo punto diventerà anche certamente un ricordo di Giorgio Chinaglia, verso Lazio-Napoli la vigilia di Mazzarri. Un periodo da questa parte, se vinci sempre o fai sempre bella figura, può starci una volta che ci va male anche a noi. In 3 anni non mi ricordo di aver dovuto preparare una partita con tutti questi assenze, tutte insieme in certi reparti. Io sono convinto e fiducioso, anzi sicuro, che a livello di motivazioni, a livello atletico, ora che possiamo lavorare per benino, speriamo di poter rimettere anche i giocatori che sono infortunati a posto, credo che possiamo fare un finale di campionato all'altezza di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Sto preparando il sistema Totocalcio per sabato, mi scrive Michele, comincia il periodo dei biscotti da questo sabato. Caro Michele, mi sembra che se leggiamo le cronache, le cronache nere di questi giorni, non c'è bisogno dei famosi saldi di fine stagione per la stagione dei biscotti. Certamente questa è l'epoca in cui qualche risultato lo si può cominciare a intuire prima, e non è necessariamente frutto di chissà quale combin, no? Questo è un discorso davvero vecchio, non come il mondo, ma certamente come il calcio. Certo, le scommesse legalizzate hanno ulteriormente aggravato questo fenomeno, mi pare che sia questa la chiave di lettura, no? del dramma che il calcio sta vivendo in prospettiva. Vittorio ha chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. No, niente, io sono intervenuto perché ho sentito dire, per quanto riguarda Pasqua o non Pasqua, fate che io pensi una battuta, la mia, che il Vaticano, cioè, interessa poco se la sera, interessa più che altro magari una preghiera la mattina, poi magari la sera si può fare quello che si desidera fare. Detto questo, io però volevo dire una cosa, che se dobbiamo guardare lo spettacolo che abbiamo visto quest'anno, o in generale come stiamo guardando ultimamente, è meglio che giochino ancora meno, oltre che non giocare a Pasqua, che non giochino per altre festività, perché se devo vedere il Catania che sembra il Real Madrid col Milan, o il Napoli fare le prestazioni che fa dopo la Champions League, quelle cose lì, secondo me è meglio giocare meno. Io penso che negli altri campionati possano giocare un po' di più, perché fanno giocare tutti, da noi non fanno giocare tutti, noi fanno giocare sempre i soliti e non è più uno spettacolo, è una cosa inguardabile. Tutto qui, signor Vili. Boh, sì, certo, quella del discorso del sabato o domenica di Pasqua o lunedì è, nel suo caso, è un pretesto, insomma, no? per una critica estetica, direi, al calcio italiano. Quest'anno effettivamente non è stato positivo da questo punto di vista e non lo è tuttora. La stessa lotta per il titolo sì, è appassionante e lo sarà ancora di più in queste ultime giornate. Dire che sia stata anche appagante da un punto di vista, per l'appunto, estetico è più impegnativo. Ecco, poi magari adesso diventerà chissà che meraviglia, ma insomma fino a qui non lo è stato, quindi è vero, non è un'annata favorevole qualitativamente parlando per il nostro calcio. Ivan, provincia di Messina, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Volevo dire, se considerate i due scontri che ha avuto il Milan col Barcellona, facendo un po' un gioco, no? E sostituendo il Milan con la Juventus attuale, vedendo anche il Barcellona di questi due scontri diretti che ha avuto contro il Milan, secondo lei come sarebbe finita? Un saluto e tanti auguri di buona Pasqua. Non l'ho capito però, Ivan, deve provare a rifarmi lo schema, perché non l'ho capita proprio. Se dovessimo sostituire i due scontri che ha avuto il Milan contro il Barcellona in Champions, no? Vediamo il Milan e mettiamo la Juve di adesso. Cioè mettiamo la Juve contro il Barcellona? Sì, la Juve di quest'anno. Secondo lei avrebbe fatto, diciamo, tra virgolette, la stessa figura del Milan tirando soltanto... Non lo so, Ivan, le garantisco che già il calcio che vediamo mi sembra più che sufficiente per, almeno parlo per me, mi sembra più che sufficiente per tenere lontane altre ipotesi fantacalcistiche. Chi può dire questo? Io posso dire che la Juventus avrebbe sderenato il Barcellona, oppure non avrebbe mai visto la palla e ha lo stesso significato, lo stesso valore. Io capisco sbrigliare la fantasia, lasciarla libera, ricorrere, però sinceramente questi esercizi qua mi sembrano, perlomeno io non ci sto, perché non saprei davvero cosa dire, non hanno questo gran senso. Giorgio Ristano, buongiorno. Buongiorno, salve. Niente, io chiamo, sono un ex atleta, tra l'altro ex compagno di squadra di Stefano Tilli. Sì. Nell'Amsicola. Chiamo a proposito di quanto ha dichiarato Stefano sul problema di patto, della difficoltà di corsa. Io ho iniziato a correre da 20 anni e ho imparato a correre a 20 anni. Secondo me il problema principale è che nel calcio c'è parecchia ignoranza atletica, se la possiamo chiamare così. Probabilmente Pato dovrebbe a questo punto imparare a correre. Io credo che ci siano gli strumenti perché lui possa farlo. Io non lo so, Giorgio, sinceramente mi dichiaro non all'altezza di un dibattito di questo livello. A me quella di Tilli era apparsa una curiosità, una riflessione fatta tra l'altro da un autorevole velocista, non che lei non sia un altrettanto autorevole ex atleta, però nel calcio non si sa correre, nel calcio si corre in maniera diversa, si corre in funzione di una palla da accompagnare, poi da calciare, di contrasti che arrivano a ogni piede spinto, cioè si corre certamente in maniera diversa che non su una pista di quindi non so, Chinaglia correva malissimo, ma non so, ma noi possiamo fare un elenco interminabile di gente che presa da un punto di vista estetico, da un punto di vista di eleganza, di corsa, magari anche di correttezza, di postura, prendendo dei parametri, non so, chi prendiamo, Prassitele, prendiamo i canoni storici, fin dove risaliamo, può darsi, il mondo è pieno, ripeto, il mondo del calcio, di gente che corre in maniera magari discutibile, ma da lì a rompersi in continuazione c'è un po' di differenza. Quella che Tilli ha avanzato è un'ipotesi per spiegare un mistero, poi io non so che fondamento abbia davvero, non sono all'altezza di di valutarla. È un'ipotesi, dato che era così, così curiosa, mi è sembrato giusto citarla. Chissà quante altre ce ne sono, ripeto, per venire a capo di un mistero, perché quello di Pat è un autentico mistero. Se pensiamo che il luminare, no? Oltre che l'inventore di Milan Lab, aveva appena detto due giorni prima del via libera a Pato di ritorno all'America: oh, finalmente il problema è risolto, e Pato è a posto. Pato è stato il bacio della morte, questo, perché Pato 14 minuti non era mai durato, cioè perlomeno un tempo e mezzo riusciva a farlo, povero lui, no? E quindi questo direi che è singolare. Da lì il fatto che le ipotesi possano essere tante. Beh, questa della postura o del modo di correre che vi ho citato prima di Tilly ha scatenato la vostra fantasia, ma soprattutto la vostra memoria. Brigger, quando correva, sembrava fosse senza ginocchia, eppure non si rampeva mai, scrive Giuliano da Verona. Alberto Favalli scrive: certo che Garrincha correva davvero male, forse il più bel correre male mai visto. Questa la trovo molto bella, è vero. Garrincha ha persino una gamba più corta dell'altra, quindi figurarsi. E Toni non correva forse sulle uova, scrive Andrea da Pavullo. È verissimo, ma possiamo andare avanti, e secondo me andrete avanti ancora per un bel po'. Il calcio non è l'atletica, però è vero, ripeto, c'è un mistero tale su Pato che Stefano Tilly ha detto la sua. Poi non è detto per l'appunto che l'abbia detta giusta, può anche darsi proprio di no. Noi intanto ci spostiamo su un altro fronte, ben più difficile, ben più triste, ma io direi anche più che triste, e cioè il calcio scommesse. Bentornato a Marco Bellinazzo. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ho dato un'occhiata al tuo blog sul Sole 24 Ore, non so come ho fatto a entrarci, perché... Sì, c'era un po' di traffico. C'era un traffico inaudito, no? mi pare, adesso oggi mi informerò, ma ho la sensazione che siano nuovi numeri, nuovi record assoluti per il Sole, che evidentemente è percepito all'esterno non solo come fonte di informazioni economico-finanziarie, ma anche di altro. Se è vero che sul calcio scommesse, sulla tua analisi relativa al calcio scommesse, si è scatenato un raid di invasori senza precedenti. No? Sì, tanti contatti. Ora, per non citarli, insomma, posso dire più che altro che anche questa, se vuoi, Gigi, è qualcosa che ha a che fare con l'economia dello sport, però un'economia distorta e che rischia, certo, quello che è il suo oggetto, cioè il calcio, di rovinarlo. E dico purtroppo, appunto, perché sono queste notizie che evidentemente interessano molto i tifosi. Ecco, ma tu cosa hai scritto su sto blog per scatenare questa caccia? Beh, più che altro ho cercato di mettere insieme le tante informazioni che in questi giorni sono uscite, che in questi mesi, perché ricordiamo che tutto è partito da un'inchiesta del primo giugno del 2011, primo giugno, quella, esatto, Last Bet di Cremona, e in realtà le inchieste, le indagini non si sono mai fermate, sia a Cremona che appunto a Bari che a Napoli, perché anche a Napoli la procura indaga, e finora la giustizia sportiva si è pronunciata soltanto sulla prima tranche dell'inchiesta di Cremona. Ora, entro aprile, Abete ieri ci ha detto che dovranno essere fatti tutti i deferimenti in relazione alla seconda tranche dell'inchiesta di Cremona, e poi vedremo quando saranno fatti quelli di Bari. E c'è, ripeto, una tranche importante invece di indagine a Napoli, addirittura c'è di mezzo la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, che sta appurando i pericoli di infiltrazione che si sono realizzate rispetto al fenomeno sportivo a Napoli, alle partite del Napoli, alcune partite del Napoli, e vedremo in quel caso, insomma, quando partiranno i deferimenti, perché va subito chiarito che la giustizia sportiva interviene, può intervenire quando la giustizia ordinaria, quando le procure hanno chiuso almeno una tranche, insomma, hanno completato le indagini su una serie di fatti che ritengono in qualche modo appurati, poi da portare ovviamente a processo, e in quel caso la giustizia sportiva può pronunciarsi secondo la giustizia sommaria e quindi può provvedere a delle penalizzazioni, come è accaduto la scorsa estate. Avremo probabilmente dei campionati, quelli che partiranno nella prossima stagione, pieni di altre penalizzazioni, Zavorrati in partenza, quanto e come queste penalizzazioni poi influiranno, insomma, bisognerà vedere dal materiale che arriverà appunto alla procura della federazione e come saranno evidentemente giudicati questi fatti in ambito sportivo, in cui vengono giudicati in maniera più sommaria, qualcuno dice forse più crudele, ma la giustizia sportiva appunto deve fare in modo che ci siano delle pene che siano realmente afflittive, che siano tempestive, e non si può permettere i tempi lunghi della giustizia ordinaria. Questa è la grande differenza. Senti, si è cominciato da un po', per la verità, ma insomma si sta chiudendo un tantino il cerchio, no? Si sta stringendo il cerchio intorno ad alcune società che potrebbero avere problemi di responsabilità oggettiva, e quindi insomma, anche perché quello è il cardine, no? Quello è il cardine, difeso a spada tratta da Abete e Petrucci, che hanno dichiarato nei giorni scorsi che non si torna indietro su questo fronte, mentre qualcun altro vorrebbe invece cambiare i termini della responsabilità oggettiva. Di stamattina un'intervista, per esempio, del presidente della Lazio Lotito, che chiede una revisione di questo sistema, che effettivamente può essere un'arma usata da chi vuole fare danni alla società. Però è anche vero che è l'unico sistema per tutelare i tifosi, in quanto la società dovrebbe sempre vigilare e sapere cosa succede, per esempio, nello spogliatoio, e dunque si presume che la società, come dire, perlomeno abbia la colpa di non aver controllato i propri atleti quando si appurano determinati illeciti. Quello che secondo me, Gigi, è importante fare, proprio per dare un minimo di chiarezza, per tentare di dare un minimo di chiarezza, è distinguere i livelli anche di indagine, i fenomeni che sono sotto l'occhio della magistratura, che saranno poi sotto l'occhio della magistratura sportiva, perché altrimenti insomma si finisce per mettere tutto in un calderone, esatto. e ritenere appunto che il calcio sia pulito, sia sporco, e mettere giudizi, questi sì, sommari. Perché ci sono, e lo ha detto bene il procuratore di Bari Laudati ieri, descrivendo appunto i risultati dell'indagine di Bari, anzi lunedì, quando sono stati compiuti gli arresti, chiarendo che da un lato ci sono, diciamo, i fenomeni, chiamiamoli così, endogeni, no? Cioè quelli in cui il giocatore o la società si accorda con il giocatore e società avversarie per determinare un certo risultato. E questi fenomeni purtroppo sono sempre esistiti, insomma, nel mondo del calcio, in una maniera o nell'altra. Altro fenomeno invece è quello del riciclaggio, che ha a che fare con, diciamo, un'intuizione della criminalità organizzata, ed è legata appunto alla informatizzazione delle scommesse, alla globalizzazione delle piattaforme su cui si può scommettere. Per cui faccio un caso molto, molto semplice, lo ha ricordato Laudati, ma è un fatto noto, cioè basta che un'organizzazione criminale, per esempio, scommetta una stessa cifra, 1 milione, sui 3 risultati di una partita, quindi sull'1, sull'X e sul 2, sicuramente perderà 2 milioni, ma il 1,5 milioni, mettiamo, se ci fosse una quota di 1,50 sull'1, è 1,5 milioni pulito, che certo, la criminalità organizzata ha riciclato senza troppo affannarsi. Certo. Questi due fenomeni, diciamo, talvolta possono coincidere, sono i casi più pericolosi questi, e cioè coincidono nel momento in cui l'organizzazione criminale non vuole perdere i 2 milioni, quindi quelli scommessi sulle quote che poi non escono, e allora in qualche modo cerca di infiltrarsi, cerca di corrompere i giocatori, oppure magari viene a sapere che c'è già una combina in atto tra alcuni atleti di due squadre. In quel caso evidentemente c'è un insieme di fenomeni, per cui per esempio a Bari è emerso che, stando sempre alle accuse, ricordiamolo, fino a sentenza passata in giudicato, non dobbiamo gettare la croce su nessuno, però in quel caso c'erano appunto giocatori che magari vendevano la partita su più piatti, a più soggetti, appunto per lucrare la differenza. Io appunto penso sia importante fare questa distinzione, perché altrimenti insomma si finisce per confondere i piani. Nel momento in cui si ha chiaro i piani, si possono anche poi addebitare le responsabilità, e se vuoi questo è un ulteriore passaggio che possiamo fare, distinguendo tra quelle che sono le responsabilità degli atleti e quelle che sono, certo, le responsabilità delle società. Allora, sino a qui le responsabilità degli atleti più o meno si sono lette, si sono capite. C'è qualche altro nome che uscirà, qualcuno che è già stato fatto e che nel frattempo è in stand by, ma presto verrà sentito, interrogato, e quando ti interrogano e cominciano a incrociarti dei dati sotto il naso, poi insomma tutti i proclami di prima, no, non c'entro, non so nulla, non l'ho visto, vacillano, so, Masiello, Doni, ma possiamo tornare anche molto più indietro. Se invece parliamo di società e quindi di rischi, di penalizzazioni, di rischi magari anche nel campionato in corso, di retrocessioni o di cose, quali sono le società di primo livello che ti risulta possano rischiare? Il passaggio di questa inchiesta di Bari è stato importante perché ha rotto un velo, e cioè prima si diceva questi fenomeni riguardano il calcio tra virgolette minore, sì, la Serie B, la Lega Pro. Calcio Lega Pro, la calcio Serie B. Serie A c'è dentro per il momento, non con riferimento ai grandi club che per fortuna hanno giri d'affari tali per cui sono ancora in qualche modo impermeabilizzati rispetto a fenomeni di infiltrazioni. Ci sono però tutta una serie di club, e cito per esempio l'Atalanta, il Bologna, il Chievo, il Genoa, la Lazio, il Lecce, che a vario titolo sono responsabili oggettivamente, cioè non è emersa finora una forma di responsabilità diretta dei club. L'unico caso, ed è recentissimo questo, è quello di Bari-Lecce. Ieri sono uscite delle agenzie in cui si faceva riferimento al fatto che Masiello avesse riconosciuto un emissario del Lecce che gli avrebbe promesso delle somme nel caso in cui il Bari appunto avesse perso questa partita. Ora, si tratta di indiscrezioni. Lecce ovviamente ha smentito, il presidente Semeraro ha tutte le ragioni per arrabbiarsi e parla di gogna mediatica su Lecce. Cito questo caso perché, ecco, soltanto qualora venisse appurato dalla giustizia sportiva del genere, ci sarebbe una responsabilità diretta. Dei club che porta per esempio alla retrocessione automatica. Viceversa, con la responsabilità oggettiva si ha una sorta di colpa in vigilanda, lo chiamano i giuristi, per cui evidentemente tu non hai controllato che i tuoi giocatori non si mettessero d'accordo con quelli della squadra avversaria o con esponenti della criminalità organizzata, per cui a quel punto scattano punti di penalizzazione. Abbiamo visto l'Atalanta, ne ha subiti 6 lo scorso campionato, potrebbe subirne altri, quindi ci sono un altro paio di partite sospette che la riguardano. Lo stesso vale per esempio per la Lazio, che è implicata in un paio di partite. Mauri e Brocchi saranno sentiti insomma dalla giustizia sportiva. Però insomma il profilo di responsabilità della società per ora, quello che è evidente, è il profilo della responsabilità oggettiva. Ovviamente tutti poi avranno la possibilità di dimostrare in giudizio la propria responsabilità ai fatti. Ovviamente scolparsi dalla responsabilità oggettiva è quasi impossibile, perché appunto per definizione è automatica, è oggettiva. Tornando in linea con Marco Bellinazzo, che peraltro non è tanto in linea per voi, ma è qua di fronte a me. Marco, noi la volta scorsa che abbiamo parlato di questi argomenti, mi ero permesso di dire che tra le tante misure che si potrebbero prendere, adesso ormai i boi sono scappati dalla stalla e quindi si tratta, a parte le indagini che vanno avanti, si tratta di cominciare a pensare in prospettiva a che cosa si può fare per bloccare questo fenomeno. Ecco, io dico perlomeno non promuoverlo, no? E quando io vedo i campioni, quando vedo i Totti, i Buffon, eccetera, che prestano la loro immagine a giochi, ma a giochi in denaro, ma insomma non può non tornarmi alla mente che quando si giocava a carte in osteria, se c'era denaro sul tavolo, in teoria il maresciallo dei carabinieri passava e ti diceva, cioè credo che qualcosa andrebbe fatto su questo punto. Ma poi mi viene in mente però, e me lo segnalano gli ascoltatori come Luca Cereda, e dice ma se la Serie B è sponsorizzata, è B-Twin si chiama, perché è sponsorizzata da società di scommesse, ma per forza la B o no? Beh sì, questo è una grande contraddizione, forse dal punto di vista deontologico la federazione dovrebbe vietare perlomeno questo tipo di sponsorizzazioni, però è un cane che si morde la coda, non so come dire, perché l'entità degli introiti garantiti dalle scommesse sia per le casse dello Stato sia ovviamente per le imprese che su questo hanno creato un business, è tale per cui evidentemente è difficile ora tornare indietro. Abbattuta la vecchia schedina con i 13 risultati accettato questo mondo delle scommesse, il mercato che lo ha imposto, perché evidentemente piace, c'è chi ci gioca e c'è chi ci spende purtroppo tanti soldi, è chiaro che evidentemente c'è un sistema tale che funziona, che genera profitti per tanti, e dunque tornare indietro sembra impossibile. Ripeto, la federazione magari potrebbe dal punto di vista deontologico porre un limite a questo tipo di sponsorizzazioni, perlomeno non ci sarebbe un passaggio diretto di denaro tra l'impresa delle scommesse in generale e il mondo del calcio, il mondo almeno del calcio. Da questo punto di vista un passaggio diretto per l'appunto, dici. Senti, passiamo invece del... Facciamo un altro passaggio, no, rispetto al discorso che facevi prima sulle società, e arriviamo ai giocatori. Beh, i calciatori hanno sostanzialmente due tipi di rischi e pagheranno in due casi. Quello palese è quello di chi c'è dentro fino al collo ed è stato promotore o comunque parte attiva di una combin, ma il profilo più importante, che è quello su cui la federazione sta battendo ed è giusto a mio avviso che batta su questo tasto, è quello dell'omessa denuncia, cioè dare un anno, perlomeno un anno di squalifica a tutti coloro che sono stati avvicinati in qualche modo, provato, hanno saputo che c'era in atto perlomeno un tentativo di combin e, come era loro dovere, avrebbero dovuto appunto riferire alla Procura Federale, invece per quieto vivere, per omertà, non lo hanno fatto. Accaduto. D'altro canto, se Farina è diventato un eroe perché ha denunciato, certo, un'ipotesi di combin, ci rendiamo conto quale può essere invece la realtà del mondo di omertà circostante che c'è in questo mondo. Mimmo ha chiesto di intervenire da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Ascoltando, diciamo, il report del dottor Bettinazzo, viene la pelle d'oca a sentire tutta questo circo. Quello che volevo dire è, diciamo, l'ha detto poc'anzi lei, chiaramente la questione deontologica dei giocatori che sponsorizzano. Quindi, insomma, questa sarebbe stata la mia domanda. Pongo allora un quesito tecnico. Come, al dottor Bellinazzo, come effettivamente si può diciamo scommettere una quota di per esempio 100.000 euro quando per esempio per andare a pagare un bollettino postale sopra i 1.000 euro insomma mi viene richiesta, diciamo, il codice fiscale? Grazie a lei. Che queste somme vengono scommesse all'estero e non a caso nella indagine di Cremona c'era in mezzo una piattaforma di Singapore che faceva da tramite, insomma, di queste attività illecite. Questa è la risposta. Mi stavo dimenticando di Nicola Filippone e del 5 aprile. Sembra ieri. 5 aprile 1978. La nazionale Under 21, allenata da Zaglio Vicini, lascia l'Europeo ai quarti di finale, eliminata dall'Inghilterra, in cui brilla la stella di Glenn Hoddle, talento del Tottenham. Dopo aver perso 2-1 a Manchester, all'Olimpico di Roma gli azzurrini non vanno oltre lo 0-0. Vicini schiera una formazione composta da molti ragazzi che avranno poi una carriera ad alti livelli, come Giovanni Galli, Collovati, Bagni, Fanna, Manfredonia, Giordano, il romanista Di Bartolomei. In campo all'Olimpico ci sono anche Cabrini e Rossi, che saranno inaspettati protagonisti, qualche settimana dopo, nel Mondiale argentino. Giuliano ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti a lei e a tutta Radio 24. Uh-huh. Senta, niente, volevo parlare in merito a Pato e all'articolo di Tilli sulla Gazzetta. E io sono fisioterapista e posso dire che quello che ha sottolineato Tilli corrisponde, diciamo, dal punto di vista proprio visivo, corrisponde parecchio a quello che può essere una diagnosi per quanto riguarda posturale e dinamica. Quello che sorprende invece è che, diciamo, il laboratorio che ha messo su a Milano non si sia mai accorto di questo, e quello che un po', insomma, forse non ci sta. E per quanto riguarda invece, secondo me, l'aspetto della rieducazione del gesto motorio, e che tutto sommato è un gesto neuromeccanico difficile da capire, però non è così, diciamo, impossibile da poter aggiustare o modificare. Ma bisogna vedere però con quali conseguenze tecniche sul giocatore. Cioè, supponiamo che domani dicessero a Nadal che le sue posture non sono corrette. Lui comincia a infortunarsi e deve cambiare modo di attaccare la palla, come si dice oggi, e una volta si diceva semplicemente colpirla. Credo sia fattibile nel tempo questo, però non è più Nadal dopo, perché Nadal può giocare solo in quella maniera, e Pato non sarebbe più Pato perché non potrebbe più giocare in quel modo. Ripeto, io ricordo correre, ma gli ascoltatori, molti di voi non si ricorda correre Garrincha, abbiamo parlato di altri casi, ma potremmo andare avanti giorni a fare casistiche di gente che correva male da un punto di vista strettamente motorio estetico, però ha fatto la sua bravissima carriera sopportando ogni tanto, mettendo in previsione ogni tanto qualche infortunio, ma come capita anche a quelli che corrono bene. Io credo che quella di Tilly sia stata una simpatica provocazione. Marco, 30 secondi perché siamo vicini a chiudere. In 30 secondi, quale può essere quali possono essere le prossime o la prossima tappa di questa inchiesta? Beh, c'è una necessità ora di accelerare il più possibile il passaggio degli atti dalle procure, in particolare da quella di Bari, alla procura federale. La giustizia ordinaria farà il suo corso, ci metterà ancora il tempo necessario per concludere le indagini. L'importante, appunto, è che invece la procura della federazione possa intervenire e disporre le penalizzazioni prima che il prossimo campionato parta. Ah, questo direi che è basilare. Enrico Milano scrive: Pato ha messo su un sacco di muscoli strani, ecco il motivo degli infortuni. Però Enrico, un sacco di muscoli strani li ha messi su in tanti, ma proprio in tanti, per non dire tutti, e però no, non per questo hanno avuto 15 stiramenti in 3 anni o quanti ne ha avuti questo disgraziato di Pato. Io comincerei con ringraziare Marco Bellinazzo per la sua partecipazione. Se trovate posto e se riuscite a prenotarvi, inseritevi sul suo blog, sul Sole 24, sul sito del Sole 24 Ore. Grazie a Nicolò Rinaldi in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.